qua comincia. Voilà. Buonasera, allora vi do il benvenuto presso la Biblioteca Claudia Augusta. Per chi non ci conoscesse, vi ricordo che siamo qui nella nostra sede provvisoria in attesa della costruzione del polo bibliotecario. Qui quindi prestiamo i nostri servizi, raccogliamo, conserviamo e diamo in prestito materiale della nostra raccolta locale. E vi invito ad iscrivervi, l'iscrizione è gratuita, così come il prestito e quasi tutti gli altri servizi. E vi mando i saluti dell'assessore e vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 14 aprile, ed è la presentazione del diario di Silvana Kummer, Tutto è grigio ora per noi, a cura di Ferruccio Kummer. Lascio invece adesso la parola a Paolo Carnevale con la presentazione del suo libro L'amaro caso di Ray Mazzarino e a Daniele Valina. Buona serata. Allora, introduco brevemente il personaggio che avete qua davanti, Paolo Cresi Carnevale. Io lo conosco bene, possiamo dire, perché sono vari anni che ci frequentiamo. Quindi conosco più o meno fin dalla prima ora per la sua maniacale tenuta di diari, quadernetti, giornalieri, così vediamo anche come nasce la scrittura, diciamo così. Conosco gli sviluppi, le cose che hanno portato a questo personaggio, alla nascita di questo personaggio, sono stato informato fin dalla prima ora dell'esistenza di questo Manni Franzensfeste, un nome che è un capolavoro e che si inserisce nel gusto per i nomi, diciamo così, che caratterizza tutti gli scritti di Paolo Carnevale. Questa che presentiamo, L'amaro caso di Ray Mazzarino, è l'ennesima ormai avventura del suo detective. Qui sono esposti altri titoli, insomma, che riguardano questo suo personaggio. L'ambientazione è sempre la solita, è quella di Bozentown, un nome che mi suona sempre come un po' come un De Profundis per la comunità italiana dell'Alto Adige, nel senso che c'è una componente di tedesca, diciamo così, e una componente internazionale, anche in ossequio a quello che mi sembra di poter osservare guardando ogni tanto la televisione austriaca, è quello che sta succedendo oltre Brennero, diciamo così, in Austria. Se c'è una grande passione, è la passione per le americanate, per i modi di dire anche, che fanno nascere neologismi, tipo handy è il più diffuso, insomma, diciamo, per mobile, quello che gli americani chiamano mobile, che è il telefono cellulare. Al di là di questi vezzi, di queste manie, anche Paolo inventa dei nomi veramente incredibili, fatti di varie, che profumano di vari paesi differenti, e questo perché proprio Bozentown è una città dove tutto è possibile. Questo che lui chiama il Sudtirolo imperfetto, che ricorre in tutte le sue avventure, è un buco freddo per certi versi, dove lui è in fuga dal turismo di massa, da cose di questo genere, forse dalla cementificazione, dal cambio di posti che lui amava in una certa maniera e ora sono diversi, per cui c'è anche questa leva, diciamo così, della nostalgia. E in questa città dove tutto è possibile, perché geograficamente, come tipologia di dominazioni che ha avuto, di fatto potrebbero essere successi degli incroci incredibili fra popoli diversissimi e aver prodotto queste persone che circolano abitualmente nelle sue avventure. Non è il caso di Ray Mazzarino, che proviene invece da un'altra parte, diciamo così, non c'entra niente, capita in città, e anche questo è bellissimo perché era una Bolzano quella di Ray Mazzarino, un titolo che mi ha fatto venire un sussulto dicendo ma io questo l'ho conosciuto, in effetti, ed è proprio così, perché è un personaggio reale, diciamo, la realtà si mescola con la fantasia dell'autore. E questo Ray Mazzarino, venuto da fuori, è riuscito a vendersi come un grandissimo musicista, come scoprirete forse dalle letture, senza esserlo di fatto, no? Ma questo è possibile proprio nella Bolzano degli anni 70, che è un po' descritta, se vogliamo, da queste avventure, o dei primi anni 80, no? Una città ancora un po' provinciale, non ancora sufficientemente smaliziata, dove potevano succedere anche queste cose. C'era una specie di esterofilia, diciamo così, sottopelle, no? Forse per il fatto che non andavamo mai da nessuna parte, che non c'erano tante cose da fare, per cui riuscivi a berti delle storie inverosimili come quelle raccontate da Ray Mazzarino a proposito delle sue, della sua perizia musicale, diciamo così. Era un personaggio e come tale veniva da fuori. Ecco, queste cose mi fanno molto pensare alla Bolzano della mia gioventù, diciamo così. E Cresi a questo proposito è una memoria pachidermica, nel senso che si ricorda tutto, parla di storie d'amore che sono di una purezza, secondo me, disarmante, forse questo segno anche di una personalità irrisolta, e lui mi ha confessato che in effetti rispetto alle prime storie dove si identificava molto con il detective Manny Franzensfeste, ora si identifica di più con un personaggio laterale, diciamo così, che è questo Bangor Grillparzer. Questi sono i nomi tipici che provengono da Paolo, e questo forse è anche il segreto per cui piace a generazioni diverse. Piace ai suoi amici, ovviamente, piace alle persone che sono cresciute più o meno negli anni in cui è cresciuto lui, e piace anche però molto ai giovani, ai teenager, perché un po' loro invidiano questa sua capacità di trovare, quando esce da Boots and Town per rivolgersi al mondo, per dar seguito a questa esterofilia covata che c'è sempre stata, secondo me, in questa città, e nei suoi lunghi viaggi. Infatti l'editore Traven Books è un editore che si ispira molto alla letteratura di viaggio, per definizione, parlando del mitico B. Traven, che alcuni sostengono, è una tesi minoritaria, essere addirittura Jack London in persona, che si è rifatto una vita in Europa come B. Traven, e ha scritto anche un libro. E diciamo così, appunto, andando fuori, andando all'estero, penso che i giovani trovino in lui la capacità di trovare punti di riferimento fissi, costanti, nel grande fuori, e in particolare, diciamo, con un'ossessione particolare, che è quella per la musica, per cui non si può non conoscere il quarto disco di Warren Zevon, anche se si sta parlando con un, non so, lavapiatti turco di un ristorante di Bolzano, no? Non può essere che lui non conosca queste cose, che le devono per forza conoscere tutti quanti. Insomma, con questi riferimenti maniacali molto precisi alla colonna sonora più o meno di quegli anni, quella che è stata la sua colonna sonora, dove vengono fuori sempre a livello musicale, perché sono molto suonati i libri di Paolo, ci sono tantissimi riferimenti alla musica. I suoi peggiori nemici ascoltano musica jazz, ovviamente, che è uno di quei generi che lui non ha mai gradito, diciamo così. Per cui piace ai giovani, piace agli anziani, piace ai suoi amici, parla di centinaia di persone come se tutti dovessero conoscerle, ma la cosa sembra, a quanto pare, funzionare egregiamente, e adesso sentiamo perché. Questo, il perché non ve lo so dire, probabilmente perché nel modo di raccontare questi personaggi riesco a farli diventare parte anche di chi sta leggendo, così una possibilità potrebbe essere questa. Come il caso proprio di questo Ray Mazzarino, che oltre a Daniele e a me c'è un'altra persona qui che ha avuto modo di, o forse due, e qualcuno l'ha solo conosciuto così di riflesso, qualcuno ne è stato vittima. E questo Ray Mazzarino era un losco, possiamo dire, figuro, perché comunque quello che ha fatto a Bolzano è rimasto un pochino, diciamo, sul gozzo a un bel po' di persone che, prese dall'entusiasmo, da questa passione per l'esterofilia, dovuta probabilmente anche al fatto che erano anni in cui a Bolzano non succedeva assolutamente niente. Chi come noi è cresciuto negli anni 80, nei primi anni 80, a Bolzano si ricorda sicuramente che c'era l'evento una volta all'anno, tipo il concerto della Carovana del Mediterraneo, quello di Frank Zappa, però era una cosa e poi per il resto dell'anno bisogna accontentarsi di quella, di quella, di quell'evento. E quindi il fatto che in città fosse arrivato alla fine dell'estate questo personaggio che raccontava delle storie incredibili sui musicisti che aveva conosciuto, con cui aveva suonato, aveva fatto sensazione su parecchi nostri coetanei. E quando questo soggetto, in virtù non si sa bene di cosa, diciamo un po' della faciloneria di un organizzatore di spettacoli bolzanino, che tutti conosciamo, e un po' sull'onda del fatto che questi ragazzi hanno creduto a tutto quello che lui diceva delle persone che frequentava quando stava in America, ha organizzato dei corsi di improvvisazione jazz a cui tutti si sono iscritti in massa. Alla fine Ray Mazzarino è sparito da Bolzano con l'incasso di tutte le iscrizioni ai corsi di improvvisazione jazz, con gli spartiti di Stefano Pradelli, con, narra la leggenda, un giaccone o un cappotto di un altro musicista bolzanino che adesso fortunatamente non ha grossi problemi, però all'epoca dicono che avesse quel cappotto e basta, la chitarra, e vivesse in uno stanzone sotto i portici, dove abitava anche lo stesso Mazzarino, che prima di sparire con l'incasso si è preso anche il giaccone, perché ormai l'inverno era alle porte. Queste poi sono tutte leggende che ho raccolto parlando con amici e musicisti che hanno avuto, diciamo, la sfiga di incappare in questo personaggio. Nell'era di internet, quindi della possibilità di risalire a chiunque tramite la rete, devo dire che non ho trovato nessuna traccia di Ray Mazzarino. Ci ho provato, sono anni che ogni tanto digito quel nome, lo scrivo anche in maniere diverse, ma Ray Mazzarino adesso l'unico modo, viene fuori questo libro. Prima non veniva fuori niente. Segno che probabilmente così famoso come lui sosteneva di essere non era. Ma dico, nella Bolzano di quegli anni ci stava bene che uno venisse e raccontasse di aver suonato con Tom Scott, con Greg Allman, con io mi ricordo questi due nomi in particolare, ma insomma sono due personaggi colossali, e nelle loro discografie, nelle loro biografie, Ray Mazzarino non viene mai citato. E questo, insomma, dà da pensare. Questo, chiudo il discorso e vi vado a leggere un po' di questa storia che si dipana da Bolzano al Vietnam e vede Manny Francis Feste alla ricerca di Ray Mazzarino, commissionatagli da questi ragazzi che nel frattempo sono cresciuti e hanno ancora questa ghiandola di Ray Mazzarino che gli ha fregato i soldi, e a quell'epoca, quando erano dei ragazzi tra i 16, 23, 24 anni, anche quei pochi soldi che gli aveva fregato Ray Mazzarino comunque erano importanti. E quindi Franz Feste parte per il Vietnam in cerca del sedicente session man e musicista. Premetto che Franz Feste va in Vietnam molto volentieri, perché il suo acerrimo nemico Pavel Szymanski, responsabile dell'omicidio di Pippo Colosimo, socio in affari e in investigazioni di Manny Franz Feste, questo Szymanski è scappato in Vietnam. Da un libro all'altro Franz Feste lo insegue, prima a Praga, poi in Belgio, adesso sapendo che è in Vietnam coglie al volo questa offerta di andare a cercare Ray Mazzarino, perché sa che in Vietnam avrà occasione di mettersi anche sulle tracce del suo nemico numero uno. E adesso vi vado a raccontare come è successo che Franz Feste è stato contattato dai ragazzi di Bozentown per andare in Vietnam. All'origine di tutto c'era Helmut Saluzzi, ma una volta tanto non si era trattato di un incarico scomodo sbolognato all'indirizzo di Franzensfeste. Saluzzi si era separato dalla moglie, un autentico evento. Ecco una cosa che Franzensfeste non avrebbe mai potuto immaginare. In tutti quegli anni aveva maturato la convinzione che il suo amico ispettore di polizia nel capoluogo di Sottotirolo Imperfetto avrebbe terminato i suoi giorni al fianco dell'arpia con cui era convolato nozze molti anni prima. Lo aveva sottovalutato. «Sai, Franzensfeste», gli aveva detto, «mi costa molto meno in alimenti prefissati dal giudice di quanto non mi costassero i suoi capricci e le interminabili seghe di sua madre». Impossibile dargli torto. Franzensfeste conosceva Saluzzi dai tempi della scuola e si era chiesto da subito perché si fosse andato a impelagare con una donna come la signora Tonia. Ma quando uno decide di sposarsi, non ci sono cazzi, si sposa e basta. Non ci sono amici che tengano discorsi dissuasivi di sorta. Così è andata. Né Manni né altri amici avrebbero potuto convincere Saluzzi del passo falso che stava per fare. Per quanto il fatto stesso che alla festa di nozze Saluzzi avesse chiesto a Bobby Sottirolo di suonargli quel vecchio brano degli Stones intitolato «You can't always get what you want» fosse abbastanza sintomatico del disagio dello sposo. Ovviamente Bobby si era rifiutato di eseguire la canzone richiesta, ricordando ad Helmut che quello stesso brano, nel film di Kasdan e il Grande Freddo, veniva suonato durante un funerale, e se la signora Tonia se ne fosse accorta durante la luna di miele di Helmut, durante la luna di miele di Helmut sarebbe stata più rovinosa di quanto già se ne fosse accorta, la luna di miele di Helmut sarebbe stata più rovinosa di quanto già non si preannunciasse. Tant'è. Ora Saluzzi aveva lucidamente deciso che quel matrimonio non poteva e non doveva continuare, e dopo aver trovato un posto dove trasferirsi, aveva chiesto a Franzensfeste di consigliargli un avvocato di fiducia. Il detective non aveva avuto dubbi a proposito. Lo indirizzò con sicurezza da Poia Loia, l'avvocato hawaiano che aveva lo studio nel suo stesso palazzo. Fu così che il giorno dell'udienza per la separazione, dopo aver visto il giudice, Saluzzi invitò Poia, Manni e il brigadiere De Boni a brindare con lui al bar da picchio. Gerino perse addirittura il numero dei bicchieri che Saluzzi si scolò in quell'occasione e decise che abbonargliene qualcuno non sarebbe stata una cattiva idea. Quando De Boni riuscì infine a smuovere Helmut dal banco e a spingerlo dentro la macchina con l'aiuto del Nino del Baba, Poia rimase solo con Franzensfeste. L'inverno a Bozentown era sempre stato il prevedibile. Nevicate, canicole inattese e poi freddo pungente. Di quello spietato, come quello che aveva spinto Red Max ad emigrare in Polinesia tanti anni prima. Guardando fuori dalla finestra del bar, Manni pensava malinconicamente alle sue camicie floreali e alle serate trascorse nel beer garden del locale, quando l'afa estiva non concedeva altre vie di fuga ai cittadini di Bozentown. Per la verità, c'erano anche i bagni nel lago di Monticolo, ma non erano cosa per Franzensfeste. Da quando il suo socio Pippo Colosimo era stato rinvenuto in fondo al lago con un blocco di cemento ai piedi, Manni aveva abolito i bagni al lago. «So a cosa stai pensando, Franzensfeste», disse Poia. «Credo che non occorra ricordarti che io posso capirti molto bene». «Certo, ma perché cazzo te ne sei venuto via dalle tue isole dove è sempre estate? Sono io che non so capirti». «Le stagioni, Franzensfeste, volevo conoscerle tutte». Ma Poia era nato su un'isola dove di stagione ce n'era una sola. A volte un po' più secca, altre più umida, ma sostanzialmente una. E le montagne, ovviamente. Ovviamente, era già un altro discorso. Franzensfeste ci sentiva già molto di più da quell'orecchio. Anche per lui le montagne erano importanti. Certo, era un topo di città, ma le giornate trascorse in quota erano impagabili. Avrebbe avuto difficoltà nell'immaginarsi a vivere in un luogo senza montagne, e grazie a Dio, in suo Tirolo imperfetto, le montagne non mancavano. Anzi, con ogni probabilità, aveva le montagne più belle che si fossero mai viste sulla faccia della terra. Franz Feste ebbe automaticamente la risposta che cercava al perché Poia se ne fosse venuto fin lì dalle Hawaii. Comunque, Franz Feste, vorrei proporti un lavoretto che per qualche tempo ti porterebbe in un luogo dove potresti sfoggiare i tuoi camicioni a fiori e riscaldare la tua spina dorsale intirizzita. Sono tutto orecchi, commentò Manny, accendendosi una sigaretta e porgendone una a Poia. Gerino, per favore, 2 carici di rosso buono, ordinò Poia. E poi, si tratta di un viaggio lungo, in un paese caldo e affascinante. Ho dei clienti, un gruppo di clienti, che hanno molto a cuore il ritrovamento di un losco figuro che li ha truffati e poi è sparito dalla circolazione. Tra 2 mesi ci sarà un processo, ma se non troviamo l'imputato, i giudici prenderanno la cosa sotto gamba e c'è il rischio che il furfante la passi liscia. Vai avanti, mi incuriosisce. Ora, pare che qualcuno durante una vacanza in Vietnam abbia incontrato una persona che corrisponde alla descrizione del suddetto individuo. Così i miei clienti, e ti assicuro che si tratta di un folto gruppo, disposto ad investire parecchio, sarebbero interessati a farlo rimpatriare in tempo per il processo e vederlo punito una volta per tutte. Vietnam, hai detto? Vietnam. A Franz Feste tornò alla mente il cadavere di Claudette Drew nella cella di fermentazione della birreria dell'abbazia d'Orval. Quel cadavere in attesa di essere rispedito in Vietnam, paese d'origine della famiglia di Claudette. Invece in Vietnam c'era finito Pavel Szymanski nascosto nella bara di Claudette. Il ricordo fece tornare in mente a Manny un sacco di cose. Sentì anche una grossa fitta alla testa, proprio dove Szymanski lo aveva colpito col calcio del revolver stordendolo. «Ci sei ancora?» chiese poi, agitando la mano davanti agli occhi spalancati di Franz Feste. «Ci sono, ci sono. E chi sarebbe il gentiluomo che dovrei rimpatriare?» «Mazzarino, Ray Mazzarino». E così finalmente fa la sua comparsa questo personaggio. A me è successo di incontrare poi questo Ray Mazzarino la prima volta quando, su segnalazione dell'organizzatore di manifestazione Bolzanino, di cui parlavo prima e che nel libro ha il nome di Pino Forget, da cui è anche facilmente ricondursi al suo vero nome, visto che Pino non è il suo nome, ma il nome di sua moglie, cioè, al maschile. E che mi fermò in via Museo, ricordo ancora, e mi disse: c'è questo Ray Mazzarino che fa i corsi per i ragazzi. E to, che corsi? Fa i corsi di improvvisazione e jazz. A me è jazz proprio. Poi, all'epoca io collaboravo con Radio Tandem e mi venne chiesto di andare alla conferenza stampa di presentazione di questi corsi di improvvisazione jazz del Ray Mazzarino e quindi ho avuto modo di conoscere il personaggio ed era un tipo curioso, uno stroppoletto coi capelli ricci, assomigliava un po' a Maradona, aveva sempre una giacchetta o blu o bordeaux, camicia, jeans, e sosteneva di aver fatto scarrettate di sedute in studi di registrazione con musicisti famosissimi e infatti era pieno così a questa conferenza stampa in cui c'erano tutti i ragazzi che poi si sono iscritti e hanno perso i loro soldi durante... Io poi ho rimosso completamente l'aver conosciuto Ray Mazzarino, o meglio, l'ho visto diverse altre volte nel corso del breve periodo che è rimasto a Bolzano, ho assistito anche a un suo concerto, per la verità non particolarmente memorabile, al Parson, che era un bar che credo esista ancora, si chiama 5 ancora? Boh, si chiama ancora così? Si è chiamato così per parecchio tempo. Comunque, prima si chiamava Parsons, e lì, in questo posto angusto in fondo, hanno fatto un concerto in trio. Ray Mazzarino suonava il basso, poi c'era Mauro Marocco che suonava la chitarra, e il batterista era Mariano Keller. La cosa più sensazionale è che tra tutti e tre sfoggiavano una strumentazione da sogno. E Mauro Marocco aveva una Gibson Diavoletto, e Mariano Keller aveva la batteria Ludwig, se non sbaglio, e Ray Mazzarino aveva un basso violino Hofner come quello di Paul McCartney, che poi, a distanza di anni, quando usai il libro era in stampa, ho scoperto non era neanche suo, era del proprietario del locale, che aveva questo basso attaccato a un chiodo per bellezza nel locale, e quella sera Ray Mazzarino ha suonato con lo strumento del barista, perché non aveva neanche uno strumento di proprietà suo con cui esibirsi. Questo per dirvi il livello di truffaldinaggine o truffaldineria del soggetto. Era giunto a Bozentown sul finire dell'estate e vi si era stabilito. La sua storia, col passare degli anni, si era andata trasformando in leggenda e i contorni si erano via via sfumati fino a confondersi. Ray Mazzarino, all'epoca, poteva avere un'età indecifrabile, tra i 30 e i 40 anni, ma chi aveva avuto modo di conoscerlo lo ricordava semplicemente come uno un po' più grande, come si suol dire per indicare chi è più vecchio, ma non così vecchio da sembrarlo. Capelli ricci, tracagnotto, una via di mezzo tra Riccardo Cocciante e Maradona. Sigaretta in bocca, giacchetta scura, quasi sempre su camicia amaranto, e camminata alla Robert De Niro in Taxi Driver. Era comparso in città da un giorno all'altro, pare al seguito della sua donna. Nessuno lo aveva conosciuto bene, ma tutti se lo ricordavano. In qualche modo era riuscito a introdursi nel giro dei giovani che frequentavano il River Plate e gli ambienti alternativi musicali del capoluogo. Il River Plate, per chi non lo sapesse, era uno degli appellativi dei prati del Talpera, dove i ragazzi si trovavano a giocare a calcio sul prato, quindi veniva chiamato il River Plate, perché faceva pensare allo stadio argentino, e anche perché erano gli anni appena dopo la vittoria ai mondiali, quindi... Era successo così che la sua strada aveva finito con l'incrociarsi con quella di Pino Forget, una specie di impresario locale, un po' idealista e persepochista, che aveva però il pregio di credere molto in quello che faceva e nella necessità di dare agli abitanti di Bozentown un po' di buona musica e teatro al di fuori dai circuiti abituali. Non sempre le ciambelle di Pino Forget riuscivano col buco, anzi, ma quanto a buona volontà e spirito di intraprendenza, nessuno poteva contestargli nulla. Certo, c'erano stati anche episodi poco piacevoli, ma a quel tempo Forget viveva ancora sugli allori di un paio di concerti epici che negli ultimi anni avevano visto trionfare nello stadio di Bozentown niente meno che Stephen Stills e Frank Zappa. Ce n'era di che campare di eredità per altri due lustri, ma Forget non si accontentava delle glorie passate, per quanto durature, era sempre in cerca di qualcosa di nuovo da dare ai suoi concittadini. E quando Ray Mazzarino si imbatté in Pino Forget, i giochi furono presto fatti. Ray aveva già fabulato abbondantemente i giovani musicisti della città tra una birra e l'altra, da Holler o a River Plate rollando una canna. I suoi clienti erano già pronti, gli mancava un venditore che non fosse troppo preciso e burocrate e al tempo stesso munito di eccezionale entusiasmo. Pino Forget era l'uomo che ci voleva. Fu così che iniziò la storia dei corsi di improvvisazione jazz di Ray Mazzarino. I corsi di improvvisazione jazz di Ray Mazzarino vennero presentati in pompa magna nella sede di una delle associazioni presiedute da Pino Forget, con tanto di annuncio sul giornale, in un tardo pomeriggio d'ottobre, prima della reintroduzione dell'ora solare. C'erano un sacco di ragazzi, con i loro strumenti, chitarre, bassi elettrici, sassofoni, trombe, c'erano anche vocalisti, raccontò Elvis Ringo a Franzens Feste. Elvis Ringo era finito quella presentazione come inviato volante della radio della bicicletta, l'unica radio non commerciale che ancora adesso, a distanza di lustri, cercava di sopravvivere nella giungla di spot e jingle diffusi via etere. Se li ricordava ancora tutti questi giovani musicisti, presso a poco suoi coetanei, che erano lì, entusiasti, disposti a tutto per ricevere i sacri crismi dell'improvvisazione da uno che aveva frequentato il Gotha dei musicisti jazz e blues, uno che aveva fatto dischi con Tony Scott e Greg Allman. Sosteneva di averli fatti. Nelle sue ricerche telematiche, Franzens Feste aveva esplorato in lungo e in largo il sito allmusic.com, senza trovare traccia della presenza di Ray Mazzarino in alcun disco degli artisti che lui era solito menzionare. Elvis Ringo era rimasto seduto tra i ragazzi del corso col suo registratore portatile per intervistare Mazzarino. La cosa era però nata per le lunghe. Forget aveva fatto una lunga introduzione al corso parlando dell'importanza di un personaggio come Ray e della fortuna di poterlo avere a Bozentown. I ragazzi avevano ascoltato e fatto un sacco di domande che Elvis Ringo non ricordava più. Però nulla a che vedere con le tecniche dell'improvvisazione. Tutte a proposito del tal personaggio o del tal altro, invece. E Mazzarino lì, a venderne come il principe dei salumieri, un tanto al chilo. E Forget in piedi, con le mani dietro la schiena, a crogiolarsi davanti al successo della sua iniziativa. Col sorriso serafico di sempre. Andò a finire che Elvis Ringo lasciò perdere l'intervista ed il servizio per la radio della bicicletta. Secondo lui se ne poteva tranquillamente fare a meno. E quella sera mandò in onda un disco di Jackson Brown che gli pareva assai più radiofonico che non Ray Mazzarino. Elvis ricordava di aver in seguito assistito ad un concerto di Ray Mazzarino in un pub del centro. L'evento era stato, come c'era da immaginare, preparato ad hoc. Il giusto tantan pubblicitario, il trafiletto sul giornale che annunciava il trio di Ray Mazzarino. Fortunatamente per Elvis Ringo non si era trattato di un concerto jazz. Il trio era un trio classico di power blues che eseguiva cover varie. Ovviamente i musicisti che accompagnavano l'italoamericano erano due vecchie conoscenze del giro rock di Bozentown ed il concerto, a detta di Ringo, venne ricordato a lungo dai ragazzi presenti più che altro per gli strumenti che poterono ammirare tra le mani dei musicisti. Nella memoria del pubblico, ritrovatosi in quel pub, il ricordo della diavoletto e del basso Hofner fu molto più duratura della musica che venne prodotta nel corso di quell'esibizione, che tout court aveva più della jam spontanea che del concerto vero e proprio. Quello che Elvis Ringo e gli altri ragazzi presenti alla serata non potevano ancora sapere, quello che Pino Forget non poteva neppure lontanamente sospettare, era che l'astro di Ray Mazzarino, che aveva da così poco cominciato a splendere ed incantare Bozentown, era in realtà già avviato lungo una parabola discendente infinitamente e disonorevolmente breve. Ma con ogni probabilità questi erano i piani del diabolico bassista. Il diabolico bassista, adesso vi racconterò un'altra cosa che mi hanno detto sempre dopo che il libro era stato scritto ed era già in fase di stampa. È un episodio curioso. Qualcuno che l'ha conosciuto meglio di me e che lo ha frequentato diceva che di notte andavano in giro per Bolzano, dovete immaginare una Bolzano completamente deserta già a mezzanotte, e alcuni personaggi del mondo underground musicale bolzanino vagavano ancora dopo quell'ora, dopo essere stati magari ai prati e poi a bersi la birra nell'ultimo locale che chiudeva, e stavano in giro per il centro città ancora fino quasi all'alba, soltanto a fantasticare e a parlare. E uno di questi personaggi mi ha raccontato che una sera, mentre scendevano verso via Museo da Ponte Talvera, Ray Mazzarino si è voltato e ha cominciato a camminare all'indietro e si è messo a pisciare camminando all'indietro, perché sosteneva che facendo così non si bagnava le scarpe. Insomma, questo per darvi un'altra nota di colore su questo personaggio che veramente poteva essere un libro che restava nel cassetto tutta la mia vita, perché ogni altro giorno viene fuori qualcuno con un aneddoto sulle Nazzarino da aggiungere a quello che io ho scritto. Adesso non so se volete che vi legga ancora un piccolo estratto, se volete magari chiedere qualcosa, ditemi voi. Posso dire la mia? Certo. Quando lei ha parlato di questo personaggio stranissimo, mi sono ricordato di un altro stranissimo personaggio che ho vissuto quando voi forse non c'eravate ancora, a Bolzano. Era figlio di una maestra e non ha mai fatto niente lui. Si chiamava Roberti e l'avevamo soprannominato Braghela perché aveva un solo paio di pantaloni larghi ed erano sempre quelli. Lui vantava di essere un professore concertista di musica classica, grande pianista, e raccontava queste cose in giro e c'era chi li vedeva. E frequentava il conservatorio, si faceva vedere al bar del Grifone con Arturo Benedetti Michelangelo che si sedeva a prendere un caffè, questo personaggio arrivava là, si metteva a parlare con Arturo, proprio riconosceva Arturo, e non so cosa gli raccontasse, perché questo Benedetti Michelangelo, questo personaggio piuttosto scontroso, lo accettava. E stavano là e lui si creava così la sua fama. E naturalmente oltre che al conservatorio insegnava anche all'istituto tecnico, entrava con una sua borsa di pelle che era sempre quella, una cartella di pelle, entrava all'istituto tecnico dalla parte di via Cadorna, e quando tutti i ragazzi entravano nelle classi lui usciva dall'altra parte, cioè dal cortile, e se ne tornava a casa. E lo prendevano in giro, e allora lui un giorno si è molto dispettito e si è presentato al preside e ha detto: guarda, io sono un professore del conservatorio, qua ci sono dei giovanotti, dei ragazzi che mi prendono in giro. Ci fu una reprimenda terribile perché il preside credette alle parole di questo, era un povero matto, era un grande sognatore, un personaggio positivo sotto questo profilo. Sì, sì, no? Sì. Come Franz e come Mazzarino, praticamente. Sono dei personaggi che ci vogliono. Sì, sì, sì. Sì, che questa città è un magnete. Ah, io ne conosco un altro pazzo che si chiamava Ayassa e che frequentava, quando facevamo le vasche su giù, ma io parlo degli anni 50, e preistoria. E passava per essere un universitario che non era, ma noi eravamo ragazzi, ragazzini, ginnasiali, liceali, di cui eravamo. Insomma, so che a un certo punto lui studiava veterinario, aveva detto ma non aveva mai studiato veterinario, aveva mai studiato niente. Tornò un giorno con il circo Tony e vedemmo Ayassa. Ayassa faceva parte dell'entourage del circo Tony, Orfeo, non mi ricordo bene, ma all'epoca andava il circo Togni, e poi scomparve perché si sparse la voce che era riuscito, curandolo, ad uccidere un leone. Non so se facesse parte questo della leggenda, perché poi nasce la leggenda, sì, sul personaggio, no? Però erano cose belle che esistevano e che stavo pensando adesso meriterebbero di essere raccontate con un po' di fantasie, come fa lei naturalmente, in modo da valorizzare questi personaggi, ma da trarne quel tanto di valido che c'è, che può interessare una platea più, sì, sì, che magari non ci crede, dice questo è appunto di fantasia, non è vero. No, ma ci sono. Braghela è esistito, è un personaggio fisico, che poi è scomparso. Ah, ecco, racconto due episodi. Uno di quel tale, di quella mia amica, che forse sono andato a Londra e ho incontrato in una trattoria a Soho, ho incontrato Braghela. E cosa faceva? Fa lavare i piatti. Cioè era uno che viveva così. Poi tornava a casa e raccontava magari di aver fatto un concerto. E una volta venne a casa mia a suonare il pianoforte, io suonavo il pianoforte allora. frequentava il conservatorio, che lui mi raccontava delle sue grandezze. Venne a casa mia, che dice che voleva suonarmi qualche cosa, si sedette al pianoforte e cominciò a suonare. Mi resi conto che non sapeva assolutissimamente suonare il pianoforte. È quello che dicono di lei, Mazzarino. Gente che a posteriori, perché a 20 anni si è meno in grado di discernere e di capire. Lui aveva un metodo e dicevano che il metodo era anche intelligente, però non sapevano da dove gli venisse questo metodo. Però poi si erano resi conto, vedendolo suonare così, che proprio non... Dico una cosa, quando lei ha detto il basso è il tipico strumento che uno può suonare anche dentro suonare, perché con le dita così ci guarda un pochettino al tono, non lo fa sentire troppo, giusto? E questo venne a casa mia e da allora mi resi conto che ero un pazzo, che non meritava attenzione, cercai di distanziarmene. A distanza di tempo parlai con un mio amico che aveva la cui mamma era molto introdotta nell'High Society bolzanina, e gli dici: ma sai, questo è un pazzo, non è che faccio, ma come fai? È venuto a casa mia una volta, ha suonato, ha fatto venire mia madre, c'erano delle amiche di mia madre, ha fatto un concerto bellissimo. Il che ti dimostra che queste signore dell'alta società che frequentavano i conservatori, i concorsi, due giorni e robe del genere, non capivano niente. Queste andavano lì al conservatorio e ragionavano solo per darci una certa verità, ma fondamentalmente non sapevano niente. Ce n'è un altro che si aggancia al discorso, così, che l'hanno visto a Londra, qua c'era il lavapiatti, così. Sì. C'era un altro personaggio, e c'è ancora, perché è un bolzanino che però ha avuto sempre dei periodi in cui era più per la tangente che è stato un frequentatore di Re Mazzarino. Infatti io l'avevo completamente rimosso certe storie su di lui, l'avevo anche frequentato ai tempi della scuola, e che a un certo punto era scappato da Bolzano. Lui è un pianista autodidatta con un certo talento e un certo gusto, che però andava preso a estro. Giusto. Avevano provato anche a organizzargli dei concerti in maniera un pochino seria, a rappresentarlo, sempre Pino Forget era l'impresario di turno, e poi questo qui si metteva a suonare invece una canzone di Claudio Baglioni, che non c'entrava niente con quello che la gente che era andata a vedere il concerto del pianoforte si aspettava. Poi questo è scappato da Bolzano per non fare il servizio militare. Giusto. Lo ricordi? Sì, e a distanza di un paio d'anni girava la voce di personaggi che avevano incontrato in Spagna sulle vie di Barcellona, con un cieco, sostenendo che il cieco era il suo manager che gli avrebbe fatto diventare un grosso personaggio dello spettacolo. Poi, non so se preso dalla nostalgia o dalla disperazione, è rimpatriato segretamente, in Sardegna l'hanno beccato, l'hanno mandato subito a fare un anno di naia punitiva in qualche posto dell'Abruzzo, non so se dalle parti dell'Aquila, comunque insomma una cosa abbastanza dura. E poi è un personaggio che si vede ancora a Bolzano, però ci sono questi che hanno un... Pensa che 2 anni fa ha fatto un concerto di chitarra, e lui era pianista, ha fatto un concerto di chitarra al compleanno di un mio amico, in cima al colle. Per cui è ancora in circolazione. No, in circolazione era ancora. Però decantava anche di essere insegnante al conservatorio. Anche lui? Sì, però. Anche lui. Ah, vedi. Come è una... Però io non l'ho mai visto con uno strumento in mano, io personalmente, perché non mi sono capitate le occasioni. No, io l'ho sentito. No, io invece mai. E cercavo, dicevo, ma se... No, io l'ho visto, me lo ricordo, col pianoforte. Io invece mai, non sono mai riuscito. Desideravo, perché dico, voglio metterlo alla prova. Beh, io da lui ho sentito la miglior versione di Parole che io abbia mai sentito. Lui la fa a fiume, dura 20 minuti. È una cosa meravigliosa. E con ciò dici che è bellissimo. Sì, sì, sì. Garantisco di persona. Beh, anche famosi ce ne sono che comunque il grande Sid Vicious, grande, in fondo non sapeva suonare, no. È montato sul palco con i Sex Pistols, tu cosa ha preso in mano? Il basso. Logico, basso. Il Sex Pistols, Sid Vicious. Beh, ma era il, l'avevano messo lì perché era coreografico. Come? Va bene, allora non so, io se, se avete qualche altra curiosità, se no potrei leggervi ancora un, qualche riga e poi vi lascio. Ciao Stefano. Vi congedo. Poi leggiamo se l'ha trovato, no? Quello ce lo leggiamo. Questo io non vi dico niente. Qui siamo ancora nel bar da picchio e poi Aloia e Frances Feste stanno parlando di questo Ray Mazzarino, o meglio, poi sta ingaggiando Frances Feste per andare in Vietnam a cercare Mazzarino e subito una voce. Me lo ricordo io, Ray Mazzarino, aveva esordito il Baba non appena poi Aloia ne pronunciò il nome. Frances Feste e Poia, sigaretta tra le labbra e sguardo rapito, posarono i calici e si voltarono verso di lui. Era poco prima di pranzo e non c'erano ancora gli avventori degli aperitivi. Poca gente. Gerino abbassò istintivamente il volume dello stereo che stava approfondendo le note di un recente disco di rock sudista. Si riempì il bicchiere dello stesso vino che aveva servito a Poia e Frances Feste e si allungò da dietro verso il bancone per puntare i gomiti e seguire meglio quello che il Baba stava per raccontare, perché era stato subito chiaro per tutti chi avrebbe raccontato qualcosa. Sarà stato 15 anni, 15, forse 20 anni fa, chi si ricorda? Ah vecchio, ti ricordi, dai, quando si facevano le partite di calcio ai prati del Talvera. Il calcio non era certo tra gli interessi di Frances Feste, ma ricordava il periodo. C'erano i suoi amici Hagi Berin e Cal che ci andavano. Uno dei classici scontri del River Plate, come scherzosamente veniva chiamato il campetto di calcio, era quello tra tossici e simpatizzanti. Ovviamente la vittoria era sempre data ai tossici per via del doping di cui facevano ampio uso. Verso la fine dell'estate era ancora caldo. Aperte virgolette. Verso la fine dell'estate era ancora caldo, non si presenta questo tipo tarchiato, una specie di Maradona frichettone, lì dove ci sono i sassi in mezzo al prato, e offre una canna a tutti. Un classico, pensò Frances Feste, ripensando al posto all'epoca. Insomma, il tipo comincia a raccontare che lui fa il musicista, proseguì il Baba, e che ha suonato anche nei dischi, vecchio, non so se ti rendi conto, a quell'epoca faceva sensazione perché nei dischi, quelli di vinile, non ci suonavano mica tutti. Faceva colpo uno che suonava nei dischi, oh cazzo, e poi, mica nei dischi qualunque, insomma, ti snocciola fuori tutta una serie di nomi mica da ridere, e tra un tiro di canna e l'altro te lo racconta su che lui ha suonato con loro e noi tutti lì ad ascoltarlo a bocca spalancata. Vecchio, che storiazza! Un musicista di quelli veri che stava lì a farsi una canna con noi e intanto ti raccontava un sacco di cose. Per concludere, non salta fuori che è venuto ad abitare a Bozentown. Oh, non so se mi spiego. Qui tutti facevano carta e fascia per andarsene a vivere da qualche altra parte. Possibilmente a Bologna, che all'epoca pareva il paese del Bengodi. E questo tizio, invece di starsene in giro a fare la bella vita da musicista famoso, veniva a rinchiudersi fra le montagne di Bozentown. Per fare cosa? Per vedere cosa si poteva fare qui, ci disse. Magari organizzare dei corsi musicali per i ragazzi di qui. Ce ne sono, vero, giovani aspiranti musicisti in questa zona? Poi, finita la canna, oh vecchio, una canna lunga da qui a Livet, saluta e se ne va. Bene, ci vediamo. Io mi chiamo Ray. Il Baba si sparò in bocca una manciata di patatine, cui fece seguire un sorso di vino. La musica tornò alta e le notti di Mamma Maria riempirono il locale. Io me l'ero dimenticato. Ma guarda, è un personaggio, anch'io me l'ero dimenticato. Me l'ero dimenticato. Completamente rimosso, e l'ho visto tante volte. E poi un giorno Bobby mi fa: devo scrivere una storia perché mi hanno detto di un tipo che c'era qui a Bolzano, pazzesco. Chi? Ah, uno mi hanno detto così colà. E gli faccio: lei Mazzarino? Ma lo conoscevi? Sì. Io non me lo ricordo. Ma tu eri a Bologna per periodo a studiare, quindi non l'hai conosciuto. Ma era veramente così come mi hanno detto. Mi dice le storie, dico, sì, era così. Poi io non sapevo tutte quelle che sapeva lui, io non sapevo delle altre, insomma. E poi dopo un po' di tempo gli ho detto: ma la scrivi sta storia su Sai Mazzarino? Sì, devo scriverla. Poi dopo altri 2-3 anni gli ho detto: adesso la scrivo io. Che ti aspetto che la scriva tu. E sta lì, e così l'ho scritto. Ma poi anch'io l'avevo proprio resettato completamente. Però nel momento in cui è venuto fuori subito. Beh, adesso non mi ricordavo più neanche l'altro, che adesso mi viene il nome. No, come l'hai detto? Cacchio. Dai, in bicicletta suonando la chitarra. Anche. Era anche caduto. A qualche semaforo. Cioè, sai che quella sera al Parson forse c'era? Dico, io l'ho andato perché sembrava. Forse adesso c'era anch'io. Ce l'avamo quasi tutti, eh. Bene. Grazie, grazie a voi.